Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 24 giugno, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV, ora in onda su Radio Città Fujiko e poi su Lepida TV canale 118 e Teletricolore canale 636. Buongiorno anche alla mia collega Antonella Cortese. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Allora, oggi vi porto a Rebibbia. La notizia cita: nella città dolente di Rebibbia, 25 detenuti attori celebrano Dante. È perché dopo un anno e più di chiusura sanitaria, il prossimo 2 luglio, quindi segnatevi la data, anche il teatro di Rebibbia Nuovo Complesso tornerà alla vita. Una riapertura nel rispetto delle regole di prudenza anti-Covid, con un pubblico esterno chiaramente limitato, in vista della prossima stagione autunnale. Ma è anche l'occasione questa per tornare a parlare di Dante, quest'anno nel 7° centenario della sua morte, ricordo, 1321-2021. Quindi i detenuti attori attueranno sul palco un progetto dell'attore Fabio Cavalli, tra i protagonisti del film Cesare deve morire dei Fratelli Taviani, e ricordo che anche alcuni di questi detenuti sono protagonisti di questo film, con il sostegno della Regione Lazio, Direzione Affari Generali, in collaborazione con il Garante delle persone private della libertà personale e il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Caterina, quanti sono gli attori detenuti coinvolti in questa attività? Dicevo, per l'appunto sono 25 detenuti del reparto di alta sicurezza. A riflettere sui concetti di colpa, pena, pietas, speranza, liberazione attraverso le visioni della Divina Commedia. Lo scopo è naturalmente quello di far emergere una visione diversa del carcere, un percorso quindi nuovo, difficile, ma anche poetico, etico, attraverso la caduta, la pena e poi il riscatto. Perché è proprio sul palcoscenico che Dante torna a rivelarsi come il poeta dei poeti, senza tempo, capace di parlare all'agire umano, al patire anche con parole che sono sempre trasversali e in contesti anche culturali e sociali molto diversi. Sì, effettivamente anche l'inferno dantesco assomiglia un po' alla descrizione di un antico carcere, se ci pensi, no? Hai ragione Antonella, i canti dell'inferno sono carichi naturalmente di orrore e condanna per le crudeltà umane, ma anche carichi di pietà per gli sconfitti, sdegno per le vergogne dei potenti e i loro servi. Per parlare della detenzione spesso si evoca la metafora della città dolente, come nel canto terzo della Divina Commedia la porta dell'antinferno ha queste parole inscritte: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Bisogna aggiungere che questo che da sempre la privazione della libertà personale è causa di un dolore inesprimibile. Ma è proprio per la gravità dell'ingiustizia commessa dal colpevole che la giustizia umana cerca controbilanciare al dolore provocato. Dalle più antiche civiltà fino al secolo scorso l'inferno della pena era previsto per legge e anche accettato dalla società. Il colpevole era considerato un peccatore e il peccato e il reato erano praticamente la stessa cosa. Questo ancora di più ai tempi di Dante. Ma Dante, come dicevo prima, si eleva sul proprio tempo e su ogni tempo, perché dalla cupa visione infernale emergono invece figure capaci di mantenere una profondità umana e una grande dignità. Pensiamo soltanto a Paolo e Francesca, a Ulisse e Diomede, ma anche addirittura al conte Ugolino, capace comunque di un pensiero molto, molto profondo. E quindi dalla disperazione davvero dell'inferno fino al canto finale, il 34° dell'inferno, dove Dante esce a rivedere le stelle, questo sul serio. Caterina, passiamo alla musica, che forse non è proprio del periodo di Dante, diciamocelo. Rimaniamo con Eminem? No, la musica è tutt'altro che è del nostro periodo, del nostro tempo. Rimaniamo allora con Eminem e Beautiful, una canzone del 2009, e vi aggiungo anche una curiosità. Il povero Eminem da ragazzino fu bullizzato e lui raccontò questo episodio in una canzone, Brain Damage, che è arrivata alle orecchie del bullo in questione, che anni dopo lo ha denunciato chiedendogli, pensate, $1 milione di risarcimento per danni e per diffamazione. Ma ascoltiamo questa canzone, è veramente bellissima come è il suo titolo. Are you calling me? Are you trying to get through? Are you reaching out for me? I'm reaching out for you. I'm just so fucking depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent. But I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet, and I know some shit so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough fact to follow. One tough fact to follow, I'll be one tough fact to follow. Here today, gone tomorrow, but you have to walk 1,000 miles. My shoes just to see what it's like to be me. I'll be you, let's trade shoes just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine, go inside each other's minds just to see what we find. Look at shit through each other's eyes, but don't everything's so tense and gloom. I almost feel like I gotta check the temperature of the room. Just as soon as I walk in, it's like all eyes on me. So I try to avoid any eye contact, cause if I do that, then it opens the door for conversation. Rieccovi sempre su Liberi Dentro di Radio TV, e adesso passiamo a un'altra notizia in qualche modo legata alla cultura e allo spettacolo, con Antonella che ci parla di Jodie Foster. Oggi andiamo a Cannes. Andiamo a Cannes perché Jodie Foster riceverà la Palma d'Oro alla carriera proprio al Festival di Cannes, tra il 16 e il 17 luglio. E l'attrice, regista e produttrice americana sarà ospite d'onore della cerimonia di apertura martedì 6 luglio sul palcoscenico del Palais des Festivals. In anni recenti la stessa massima onorificenza è andata a Jean Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo e Alain Delon. E attrice bambina dal talento precoce, risalirà gli stessi gradini di Cannes calpestati a soli 13 anni, accanto a Martin Scorsese per il famosissimo film Taxi Driver. Allora era maggio 1976 e il film vinse la Palma d'Oro. 45 anni dopo, Jodie Foster riceverà ancora una volta una palma, questa volta la sua. Ha interpretato tantissimi film, se ne contano una cinquantina circa, e ha anche fatto la regia di almeno 4 lungometraggi. Ha ricevuto 2 Oscar per il film The Accused nel 1989 e per il famosissimo Il silenzio degli innocenti nel 1992. Leggendari sono i suoi duetti sullo schermo con Robert De Niro, Anthony Hopkins, Mel Gibson, Kristen Stewart, Denzel Washington, e una carriera praticamente che fa un po' da ponte tra l'industria hollywoodiana e il cinema d'autore. Jodie Foster dice che Cannes è un festival a cui deve tanto perché le ha completamente cambiato la vita, e a Cannes dicono di lei che si è reinventata costantemente. Le sue scelte di attrice e regista la rendono preziosa nel nostro tempo così confuso. L'artista americana, tra l'altro, è anche un'attivista per la parità di genere nell'industria cinematografica. Ha 58 anni e nel 2014 ha sposato l'attrice e regista Alexandra Edison. Se c'è una star che può definirsi una bambina prodigio, insomma, è Jodie Foster. Basti pensare che la sua carriera, come vi dicevo, è iniziata presto, ma in realtà è iniziata proprio a 3 anni, sui manifesti pubblicitari della celebre crema solare Coppertone. Dopo aver fatto anche partecipazioni a serie TV, il debutto sul grande schermo arriva nel 1972 a fianco di Michael Douglas nel film Due ragazzi e un leone. Tuttavia l'incontro che cambierà la vita di Jodie Foster è quello con Martin Scorsese. il regista italo-americano, la scrittura per il bizzarro personaggio di Audrey in Alice non abita più qui. E soprattutto nel 1976 la sceglie per la parte di Iris, la giovane prostituta di Taxi Driver. Grazie a questo ruolo, Jodie ottiene la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista e vince un BAFTA. Il BAFTA è un premio che viene assegnato dalla British Academy of Film and Television Arts. Da ricordare sono anche i ruoli svolti in Italia. C'è il ruolo di Teresina nel film Casotto di Franco Citti, una pellicola in cui recita a fianco di Ugo Tognazzi, Ninetto Davoli, Maria Angela Melato e Gigi Proietti. E quando si afferma definitivamente? Beh, possiamo dire che la sua carriera decolla nel 1988, quando Jodie Foster veste i panni di Sara Tobia in Sotto Accusa, il film di Jonathan Kaplan, basato sulla storia vera di una cameriera stuprata sul flipper di un bar. L'interpretazione le vale l'Oscar dalla migliore attrice e altri premi come il National Board of Review Awards, un Golden Globe e un David di Donatello. La consacrazione arriva poi nel 1991 con il ruolo di Clarice Starling nel Silenzio degli Innocenti di John Dam. Grazie a questo film epocale, Jodie Foster conquista un'altra statuetta, diventando la seconda più giovane attrice di sempre a vincere due Oscar come miglior attrice. Nel suo discorso di ringraziamento, la star pronuncia queste parole: alle donne che sono venute prima di me e che, a differenza di me, non hanno avuto nessuna chance, alle pioniere, alle sopravvissute, alle emarginate. Nel 2013 riceve il Golden Globe alla carriera, diventando di fatto la più giovane attrice, a soli 50 anni, a ricevere questo premio, dopo però Judy Garland, che lo vinse nel 1962 a 39 anni. E ora, nel 2021, si appresta a ricevere la prestigiosa Palma d'Oro alla carriera al Festival di Cannes. E per continuare con la suggestione di Taxi Driver, vi facciamo sentire la colonna sonora, che ce lo evoca completamente. Fu composta da Bernard Herrmann, uno tra i principali compositori di musica di Hollywood, famoso anche per aver lavorato con Alfred Hitchcock. Ascoltatela. Bentornati sempre su Liberi Dentro e Duradio TV e oggi, siccome è sempre giovedì, abbiamo il nostro cappellano del carcere, Marcello Mattè. Buongiorno e bentornato. Buongiorno e bentrovati. Allora Marcello, l'ultima volta ci siamo lasciati parlando, accennando ai sacramenti all'interno del carcere. E questo dono per l'appunto dei sacramenti per persone chiaramente adulte. E io ti chiedo come mai i detenuti li chiedono i sacramenti a un certo punto della loro vita e perché? Beh, va tenuto presente che il sacramento più richiesto, come è prevedibile, è quello dell'Eucaristia, perché celebriamo ogni domenica, vengono celebrate 5 sante messe all'interno del carcere e c'è una partecipazione abbastanza alta. Là dove si celebra nelle salette delle sezioni o nelle cappelle delle sezioni, la partecipazione è ancora più alta e mediamente comunque più alta della partecipazione nelle nostre parrocchie. E questo può essere un dato in se stesso, può anche non voler dire niente, perché i numeri si sa che non dicono tutto, però è comunque significativo, vuol dire che c'è voglia di partecipare, c'è desiderio di partecipare. E anche la partecipazione all'Eucaristia è abbastanza elevata e là dove si celebra in ambienti più, diciamo così, più contenuti come numeri, la partecipazione è anche molto vivace, molto intensa. Sono davvero delle belle celebrazioni quelle che si svolgono in carcere. E qualche richiesta più sporadica invece c'è per il sacramento della cresima, solitamente viene richiesto per potersi preparare al sacramento del matrimonio, quindi a un altro sacramento. E più rare invece sono le richieste per ricevere il battesimo. Come dicevo forse già l'altra volta, queste richieste io le ricevo con molta prudenza. Inizialmente cerco di scoraggiare la richiesta del battesimo perché non vorrei che fosse strumentale o che, soprattutto quando si tratta di persone che provengono da altre fedi, che non ci sia l'illusione che ricevendo il battesimo possano avere qualche beneficio a livello di cittadinanza, a livello di permesso di soggiorno. Quindi cerco di chiarire molto in profondo con loro che cosa comporta il battesimo, le responsabilità che comporta e i vantaggi che non comporta, in maniera che l'adesione sia libera. Quando è possibile invitiamo il Vescovo a celebrare questi sacramenti, specialmente quelli del battesimo e della cresima, anche perché compete a lui, e possibilmente cerchiamo di farne un'occasione di festa per tutti i partecipanti. Sporadicamente abbiamo celebrato anche il sacramento del matrimonio, qualche volta fra persone detenute, quindi lui e lei che erano entrambi in carcere, o altre volte anche con persone che uno dei due coniugi proveniva dall'esterno. In quel caso la festa naturalmente è più contenuta perché dobbiamo celebrare in una saletta riservata alla presenza dei soli testimoni. E spesso Marcello, quando si pensa al carcere c'è sempre il problema del tempo, questo tempo infinito un po' da riempire. Allora delle volte io mi chiedo se l'adesione a sacramenti perduri per il periodo del carcere e dopo quando si esce no, perché la vita diventa più dinamica, più piena, e quindi qual è la tua esperienza su questo? Quindi se la fede continua anche dopo la scarcerazione. Principalmente non lo so che cosa accada quando nel momento in cui approdano alla libertà. Quello che è certo è che tornano alle loro comunità. E di solito tornano, questo ne ho un riscontro diretto per le testimonianze che mi danno, ne tornano con una fede più approfondita. Le persone che hanno percorso un certo cammino di fede all'interno della detenzione, nel momento in cui tornano alle loro comunità, hanno un motivo in più per credere, hanno sperimentato quanto può essere importante anche la vita di fede. So di qualcuno che si presta a fare volontariato in parrocchia e altri che hanno sperimentato l'importanza di soccorrere chi si trova in necessità. Con le persone che vengono accolte in misura alternativa, di solito costruiamo un percorso di autonomia, ma che è anche un percorso di maturazione personale. Si stringono dei rapporti che sono significativi e che coinvolgono anche l'aspetto spirituale della vita. È importante che uno possa ritrovare il senso e il gusto della partecipazione ai sacramenti, ma però è ancora più importante che possano ritrovare l'esperienza di vita di comunità. Quello che mi sorprende è che appunto i sacramenti senza una vita di comunità rischiano sempre di alimentare una visione magica della fede. Invece, laddove una persona, ritrovando la libertà, ritrova anche una comunità, ritrova anche questa dimensione più vera e più profonda dei sacramenti. Grazie Marcello, che musica lanciamo? Proponevo la rappresentante di lista Amare. Grazie, ascoltiamola. Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza, come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi, io corro e poi corro. E piango e poi piango. Amare senza avere tanto. Urlare dopo avere pianto. Parlare senza dire niente. Come il sole mi consolerà. Amare senza avere tanto. Urlare dopo avere pianto. Come l'aria che non finirà. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro e Radio TV. Stiamo continuando i nostri colloqui col cappellano del carcere Marcello Mattè e stiamo parlando dei sacramenti all'interno del carcere. Allora io ti chiedo, Marcello, se c'è qualche storia che ti porti dentro, che ti è rimasta nel cuore. Ah, c'è una storia che mi ha segnato profondamente perché l'ho registrata nella mia esperienza all'inizio del servizio come volontario, quando una persona detenuta mi ha chiesto di poter celebrare il battesimo provenendo da un'altra fede e abbiamo iniziato un percorso che era anche bello perché questa persona si trattava di una persona molto intelligente, molto interessata alla materia e quindi faceva domande molto pertinenti. E, insomma, si era costruito un bel dialogo quando a un certo punto, per ragioni che non ho ancora capito, mi ha, come dire, accolto molto bruscamente, mi ha detto che non voleva più saperne di ricevere il battesimo, che riteneva che tutte queste cose qui fossero un po' fasulle. Insomma, mi ha respinto in maniera anche brusca e devo dire che ci ero rimasto molto male perché è stata la mia prima scottatura. Proprio perché era all'inizio del mio servizio volontario, ero molto entusiasta di quello che stavo facendo, però mi è servita molto per imparare a rispettare profondamente la libertà e la verità delle cose che si costruiscono insieme. Grazie Marcello di questo racconto, sempre ricco, vivo. E ora una canzone la lancio io, i Muse con Starlight. Grazie e a giovedì prossimo. Grazie a voi, arrivederci. E rieccoci, dopo aver ascoltato le parole del nostro cappellano del carcere, Marcello Mattè, ci ridiamo appuntamento a tra poco con le rubriche Oggi parliamo di, dove avremo come ospite Giovanni Ricci, figlio di Domenico, l'autista ucciso nell'attentato a Aldo Moro. Quindi ascoltatelo, sarà una testimonianza veramente molto forte e noi ci ridiamo appuntamento a domani, sempre ore 9 Radio Città Fujiko, 13 Lepida TV, 10:30 Teletricolore e ringrazio tantissimo sempre Antonella Cortese, sempre qui con me in redazione e Pasquale Pitagnello al montaggio di queste puntate. Scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. A domani e un saluto a tutti e a tutti. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.